Componimento 103° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Vinse Annibal e non seppe usar poi ben la vittoriosa sua ventura, però signor mio caro, aggiate cura che similmente non avvegna a voi. L'orsa, rabbiosa per gli orsacchi suoi, che trovaron di maggio aspra pastura, rode sé dentro e i denti e l'unghie indura per vendicar suoi danni sopra noi. Mentre il novo dolor dunque l'accora, non riponete l'onorata spada, anzi seguite là dove vi chiama vostra fortuna dritto per la strada, che vi può dar dopo la morte ancora mille e mille anni al mondo onor e fama. Fine del componimento.